passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui alle 18:37 minuti, i numeri per chiamarci alla zanzara con i vostri interventi fino alle 21, il numero verde 800 24 00 24 349 238 6666 per i messaggi SMS alla zanzara @radio24.it. Andiamo a sentire il TG2. Economica, il richiamo di Napolitano, ridurre il debito con sacrifici equi. Il sottosegretario Letta, ci saranno duri sacrifici, speriamo per poco. Al Senato battute finali per il disegno di legge sulle intercettazioni e ancora scontro tra maggioranza e opposizione, la protesta dei direttori dei giornali. Blitz contro l'assenteismo all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. 8 persone, tra cui un medico, sono stati arrestati per truffa aggravata ai danni della ASL. Fa discutere la proposta di un senatore PDL di far cominciare la scuola ad ottobre per favorire il turismo. Disponibilità dal ministro Gelmini, contraria la Lega. Va bene, andiamo a sentire anche i primi titoli di Studio Aperto. Tragica rapina in Brasile, un turista italiano in vacanza a Fortaleza è stato ammazzato da due giovanissimi malviventi, il racconto di un amico sotto shock, gli hanno sparato senza motivo. Manovra, il governo accelera, domani al varo al Consiglio dei Ministri, saranno sacrifici duri ma spero transitori, ha detto il sottosegretario Gianni Letta. Dobbiamo salvare il paese dal rischio Grecia, appello di Napolitano, servono equità e misure condivise. Sapessi quanta gente che c'è sta, per primo cittadino e amico mio, tu digli che te ci ho mandato io. Recentemente abbiamo forse assistito a un cambio di linguaggio politico da parte di alcuni leader dell'opposizione. Ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo bene, anzi l'altro ieri, il segretario del Partito Democratico Bersani, rivolto al ministro dell'istruzione donna Maria Stella Gelmini. Io sono per far uscire da questa assemblea l'idea di una figura eroica, quelle di quelle insegnanti che nei grandi quartieri urbani o nelle città degradate in tanti luoghi d'Italia vanno a inseguire il disagio sociale, a tener fermo il bambino, a vedere che non vada via, mentre la Gelmini le rompe i coglioni. Con te che fai il cavolo. C'è chi si è scandalizzato di questo linguaggio, preceduto peraltro dalla frase diventata ormai famosa di Massimo D'Alema nei confronti del condirettore del giornale Sallusti. No, no, ma vada a farsi fottere, lei è un bugiardo e un mascalzone. Allora vi dico subito che io non mi scandalizzo per niente quando un politico ogni tanto usa un linguaggio di questo tipo, perché fa parte spesso queste frasi che avete sentito, rompicoglioni da una parte e dall'altra vada a farsi, fanno parte del linguaggio comune. Spesso si dice che i politici sono distanti dalla società civile, secondo me quando parlano così invece in qualche modo si immedesimano nel linguaggio comune di tutti i giorni. Non so che ne pensa Rosy Bindi, buonasera. Buonasera, buonasera, ma forse si potrebbe manifestare la vicinanza al paese in altri modi, va? Vabbè, sì, certo. Usare questa comunanza di linguaggio non solo, proprio elegantissimo. Non solo in questo, certamente, però insomma, certo, se fosse il linguaggio quotidiano da parte di leader politici, sì, no. Ma ogni tanto ci può anche stare, o no? Sì, sì, sì, ogni tanto ci può anche stare. Sì, francamente, devo dire che, insomma, meglio evitarlo, se una volta scappa non c'è il caso di far processi, anche perché è vero poi che anche tra di noi qualche volta nel quotidiano, magari proprio non in televisione o durante un'assemblea, qualche parola un po' meno elegante ci scappa. Senta, però quando Berlusconi, diciamo, quando Berlusconi si è rivolto alle donne in un certo modo, lei è sempre stata molto severa, perché questa volta non è stata così severa col suo segretario, diciamo? Ma guardi, io penso che in questa circostanza il mio segretario non abbia usato quel linguaggio perché si rivolgeva ad una donna. No, le faccio questa domanda perché alcuni giornali di area di centrodestra, per esempio, oggi hanno titolato la femminista Bindi, giusto insultare la Gelmini. Ho letto quel bel capolavoro di misoginia che c'è in quel pezzo del giornale, l'ho letto. No, ma se è per questo anche donne del mio partito mi hanno un po' criticata perché non ho espresso solidarietà alla Gelmini. Ma guardi, la ringrazio di chiedermelo. C'era da esprimere solidarietà, secondo lei, nei confronti della Gelmini? No, non c'era da esprimere solidarietà nei confronti della Gelmini perché, secondo me, l'espressione usata dal mio segretario non era rivolta alla Gelmini, era rivolta all'attività del ministro della pubblica istruzione. Beh, insomma, quando uno dice già la Gelmini non rompi coglioni... Sì, ma l'avrebbe detto anche se era il Gelmini. Sì. Perché è fatta in questo momento l'espressione, non era rivolto alla donna, alla persona, era rivolto all'attività del ministro. No, su questo devo dire che lei ha ragione, però c'è una cosa, è vero che si rivolgeva all'attività di ministro che secondo Bersani è diciamo rivolta contro, tra virgolette, contro le insegnanti che si sacrificano, eccetera eccetera. Sì. Però quando uno dice è una rompicoglioni, insomma, e poi la maggior parte degli italiani capiscono una cosa sola, onorevole Bindi, anche questo bisogna dire. No, ma non sono d'accordo. Da questo punto di vista, quando io fui oggetto di tanta gentilezza da parte del Presidente del Consiglio, è evidente che in quel momento il Presidente del Consiglio si rivolgeva alla mia persona ed era un attacco anche al mio essere donna. No, ma la differenza c'è, non c'è dubbio. La differenza c'è, non solo, ma in quella circostanza il Ministro Gelmini disse che non mi esprimeva solidarietà perché noi donne che facciamo politica ci dobbiamo abituare in qualche modo ad essere come gli uomini. E dunque lei pan per focaccia? No. Come no? Assolutamente. Colgo l'occasione per dire, perché quando fu offesa la Meloni, io espressi alla Meloni solidarietà. Perché fu offesa lei, si fecero apprezzamenti sul suo fisico, quindi io espressi solidarietà. Dunque nessuna questa solidarietà volta, perché lì si è criticata la linea politica della Gelmini. Esattamente, questa volta io dico, meglio non usare queste espressioni, né verso le donne, né verso gli uomini, né verso un ministro di destra o di sinistra, meglio non usare queste espressioni. Detto questo però, quando come donne veniamo fatte oggetto di critiche improprie come donne, ci dobbiamo difendere e ci dobbiamo esprimere solidarietà. Quando invece viene criticata la nostra attività, a quel punto è un segno di parità vera il fatto che nei nostri confronti si debba usare le stesse categorie che si usano nei confronti dell'attività di un ministro. No, ma lei me l'ha ribaltata in questo modo e devo dire che non dico che mi ha convinto definitivamente, ma quasi, e non è semplice. Però mi sorprende il fatto che Deborah Serracchiani, Paola Concia, Pina Picerno, la Madia abbiano tutto detto. Ma insomma, guardi che io adesso, lei mi ha chiamato stasera, però vedrà in agenzia, io ho fatto un blog proprio per rispondere anche alle mie colleghe di partito, perché sul fatto della... Cioè sbagliano a dare solidarietà alla Gelmini? Sì, no, non è sbagliano. Io la solidarietà uno la può esprimere. Lei ha detto, mi scusi, io non do solidarietà perché è una critica politica, punto. Una e dunque, critica politica. Anche le donne si devono abituare a critiche dure. Se domani Bersani usa queste espressioni nei confronti del ministro Brunetta, le mie colleghe di partito dovrebbero esprimere solidarietà al ministro Brunetta. In questo senso, non lo faranno. Perché no? Perché non lo so se lo faranno. Tra l'altro, io ovviamente il giudizio politico che ha espresso Bersani sulla Gelmini lo condivido. Io non ho capito il giudizio politico. Credo che gli insegnanti italiani non abbiano trovato nel ministro una persona che ha aiutato il loro lavoro. Hanno trovato un ministro che ha ostacolato il loro lavoro. Vabbè, ma qui entriamo nel merito. Meglio non usare quelle espressioni, ma il giudizio politico quello è. Bene, grazie. Insomma, lei ha detto una cosa molto chiara. Io non do solidarietà alla Gelmini, semplicemente non è stata offesa. Perché non è stata offesa come donna? È valutato la sua azione di ministro ancorché con un'espressione un po' troppo vivace. Detto questo, secondo me il 90% degli italiani, quando hanno sentito Bersani pronunciare la parola "la Gelmini rompe coglione agli insegnanti", non hanno hanno pensato che dietro ci fosse chissà quale ragionamento politico, ma hanno pensato, perché poi la frase viene riportata anche in questo modo, un po', come dire, no, al di fuori del discorso che è stato fatto, avranno pensato, beh, insomma, Bersani si rivolge ad una donna dicendole: questo ministro rompe i coglioni. Questo. È la Gelmini che non ha fatto la vittima, in questo l'ha apprezzata. Grazie, buonasera. Grazie a lei. Arrivi. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. Elio Germano contro la classe dirigente italiana. Voi direte: chi è Elio Germano? Un attore, ancorché abbastanza giovane, nemmeno 30 anni, il quale ha vinto un premio a Cannes. Siccome i nostri governanti in Italia rimproverano sempre al cinema di parlare male della nostra nazione, io volevo dedicare questo premio all'Italia e agli italiani che fanno di tutto per rendere l'Italia un paese migliore, nonostante la loro classe dirigente. L'Italia sulla luna. Questo era Elio Germano. Io devo dirvi che non se ne può più di persone, per carità, non conosco Germano, parlo in generale, che appena hanno l'occasione dicono: la classe politica italiana fa tutta schifo, invece noi siamo la creme, o comunque quelli che lavorano sono diversi dalla classe dirigente italiana. Non è così, spesso la classe dirigente è lo specchio della società civile. 800 24 00 24. Massimo da Caserta, buonasera. Io volevo dire qualcosa su Salvini. Sì, la sentiamo male. Luciano da Venezia, buonasera Luciano. Sì, buonasera, sono Crociani, sono Luciano. Dica. Appunto da Venezia. Io la seguo da moltissimo tempo, perché pur trovandomi nei suoi confronti abbastanza avversario, l'intelligenza con cui lei argomenta le cose comporta che ascoltarla c'è sempre da guadagnare. Ecco. Beh, grazie Luciano, però dopo i complimenti andiamo al sodo e al succo del suo intervento. Mi trovo. Allora, stiamo parlando di quel rompicoglioni di Bersani. Allora, sì, di quel rompicoglioni della Gelmini o di Bersani? Sì, Bersani sulla Gelmini, no? Ecco. Sì. La destra lo dice, vabbè, sì, insomma, una frase, ma può andar bene. Allora, se lei cortesemente ricorderà... No, la destra veramente non dice questo, abbia pazienza Luciano, mettiamo le cose a posto altrimenti non facciamo confusione. La destra dice: Bersani ha sbagliato, dovrebbe chiedere scuse, eccetera eccetera. Non dice così. Sì, sì, ma insomma non è che poi abbia detto chissà che cosa. La signora che parlava adesso diceva: beh, in fin dei conti parlando si può... Sì, Luciano, infatti era un esponente del Partito Democratico, ma andiamo al succo. Mi dica cosa pensa lei, Luciano, di questa vicenda. 3 o 4 anni fa quello studioso che poi ha fatto approvare l'accordo sulla mobilità del lavoro, mi sfugge il nome, purtroppo, mi scusi. Sì, Marco Biagi, guarda, lei mi ha fatto pensare ad una cosa. In realtà, con una cosa che mi sono dimenticato di chiedere alla Bindi, in realtà questa espressione rompicoglioni non ricorda proprio una situazione piacevole, ricorda appunto la frase rivolta dall'ex ministro Scajola, all'epoca ministro degli interni, nei confronti di Marco Biagi. E poi c'è da aggiungere anche un altro elemento: pensate a cosa sarebbe accaduto se l'avesse pronunciata un esponente del centrodestra, sarebbe stato tacciato di volgarità, eccetera eccetera. Comunque, detto questo, resta il ragionamento della Bindi, che era una frase rivolta all'operato come politico del ministro Gelmini. Luciano, concluda. Sì, quindi sono due pesi e due misure per me. Se una cosa la dice da sinistra va bene, se la fa o la dice da destra apriti cielo. Ho capito. Va bene, grazie. Giancarlo da Lucca, buonasera. Buonasera. Senta, dica. Io volevo... So che forse sono fuori tempo, perché avevo chiamato venerdì per quel fatto di quel signore che aveva difeso Berlusconi sulla parola Google. Sì. Beh, non l'ha proprio difeso, Era il responsabile, cioè, responsabile internet di Berlusconi, sì. Personale, sì, l'assistente personale di Berlusconi sul web. Oh, benissimo. Allora, forse sono fuori tema, e vabbè, comunque io avevo chiamato Giancarlo, venerdì, dica. Dicevo... io non, sono saltato su perché dico: ma perché tutta questa gente qua difende in continuazione? Cioè Berlusconi ha detto una cavolata, probabilmente è una cavolata, però non vedo perché tutta la gente, cioè, ognuno che fa parte dello schieramento di Berlusconi deve sempre difenderlo in continuazione. Cioè, questa cosa qua non... Vabbè, cioè, Giancarlo, non era proprio una difesa, insomma, stavamo anche giocando con l'onorevole sì, Palmieri. È abbastanza sconcertante il fatto che su una cosa così Palmieri riuscisse a dare un voto a Berlusconi 8 per la sua competenza sul web, mentre nello stesso tempo sosteneva che non erano nemmeno iniziate le elezioni sui motori di ricerca. La ringrazio Giancarlo e andiamo a Milano da Luca. Buonasera. Prego, dica Luca. Niente, volevo rafforzare quello che ha appena detto Rosy Bindi sul rompicoglioni che ha, sì, che ha etichettato Bersani alla Gelmini, in quanto l'attività per cui è stata etichettata rompicoglioni non ha nulla a che vedere con la connotazione femminile, cioè non ha detto la Gelmini invece di rompere gli insegnanti farebbe meglio andare a fare la calza o stare a casa a badare alla famiglia, insomma. Sì, diciamo Luca, anche come critica, no, ma non c'è dubbio, lei ha ragione, non è una critica rivolta alla Gelmini in quanto donna, naturalmente. Detto questo, come critica politica poi non è che sia granché, cioè, non, siccome ci sono gli insegnanti che lavorano nei quartieri complicati, a questi insegnanti la Gelmini rompe i coglioni, insomma, non è proprio questa osservazione politica così acuta, almeno secondo me. E poi c'è l'uso di questa parola che comunque ricorda la vicenda Scajola, non è proprio una, ripeto, una, una finezza morto, politica, è, no? Un po' diversa la cosa. Sì, ma lo sto dicendo, la parola è la stessa, certo che l'ha detto, sì, di un morto, certo. Le situazioni sono completamente diverse. Grave, Ma certo, ma non sto dicendo, è comunque, è stata utilizzata la stessa parola, o sbaglio? Sì, certo. Secondo me però, dato il tipo di attività che svolge il ministro Gelmini e come lo svolge, per me, forse no, non è nel merito. Entra nel merito, lei entra nel merito lei entra nel come merito svolge la sua attività ha della quel tono da rompicoglioni alla Gelmini. Ha il tono da rompicoglioni. Questa qua lei condivide la critica di Bersani dal punto di vista politico, ma è un altro discorso, è un discorso completamente diverso. Poi lei può immaginare cosa sarebbe accaduto se l'avesse pronunciato un ministro di centrodestra una frase di questo tipo? Beh, insomma, direi che Berlusconi ha pronunciato cose ben peggiori quando parlava Dubbio, infatti ogni volta antropologicamente diversi. Certo, e infatti ogni volta è venuto giù il mondo, o sbaglio? Ma neanche più di tanto, insomma. Ma neanche più di tanto. Semmai dovrebbe venire giù il mondo se fa passare questa legge criminale bavaglio alla stampa. Questo sì. Legge criminale bavaglio. Vabbè, ci sarà tempo per parlarne. Luca, la ringrazio. 800 24 00 24. Abbiamo il giornale radio delle 19. E siamo qui alle 19.17 sempre con la Zanzara in diretta oggi dagli studi di Roma. 800 24 00 24 per chiamarci, come sapete 349 238 6666 per i vostri messaggi. Andiamo a sentire i titoli del TG3. Napolitano, servono misure eque, mi auguro che l'opposizione le condivida. Letta, rischio Grecia, ci vorranno sacrifici duri, spero provvisori. Arriva la sanatoria sugli immobili sconosciuti al fisco, bloccati fino al 2013 gli stipendi degli statali, una sola finestra per le pensioni. Mobilitazione di tutta la stampa italiana contro la legge bavaglio, si nega il diritto all'informazione, la maggioranza possibili modifiche. Tornare a scuola il 1 ottobre, la proposta del PDL divide la maggioranza, la Lega dice no, il ministro Gelmini serve al turismo. Appello della CEI per affrontare la crisi economica, dice Bagnasco, serve un impegno bipartisan, l'Italia verso il suicidio demografico. Le frane in Sicilia, 4 mesi fa a Castellumberto, vicino a Messina, travolto dal fango, ancora centinaia gli sfollati. Anche l'Italia nella lista dei paesi che hanno vinto l'Oscar per i peggiori servizi ai turisti, la classifica stilata dai viaggiatori su internet. E andiamo a sentire anche Sky TG24. Manovra da 24 miliardi, Gianni Letta avverte sacrifici duri ma provvisori. Richiamo di Napolitano da Washington, servono misure equamente distribuite. Le priorità dei vescovi, allarme di Bagnasco su disoccupazione e bassa natalità. Allarme del Fondo Monetario, il debito italiano è alto, servono riforme e tagli. Intercettazioni, il PDL apre a nuove modifiche, si mobilita il mondo dei media. Scuole chiuse a settembre, favorevole il ministro Gelmini, Lega e PD contrari. In coma per un ritocco al seno, indagati due medici e un assistente a Caserta. Escalation militare tra le due Coree, esercitazioni congiunte Washington-Seoul. La Serie A resta su Sky, il Tribunale di Milano respinge il ricorso di Conto TV. L'Inter che verrà, Moratti per il dopo Mourinho, pensa Mihajlovic e sogna Guardiola. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. Beh, insomma, lo spettacolare intervento dell'onorevole Palmieri, l'uomo internet di Berlusconi, venerdì scorso alla Zanzara. Naturalmente in sintesi iniziamo con Berlusconi che non sa usare il PC. Berlusconi lo sa usare il computer, mi dica la verità, Palmieri, no, sia sincero. No, sia io sincero. Sono sincero con lei, tanto parliamo come in confessionale, la risposta è ovviamente no. E allora di chi è la colpa di Berlusconi che pronuncia Google Gogol? È sua naturalmente, di Palmieri, se la prende tutta. È una cosa che può capitare quando una persona parla a braccio su tantissimi temi e in un'occasione importante, sa perché è colpa mia, perché non abbiamo ancora fatto il lavoro sui motori di ricerca. Non abbiamo fatto il lavoro sui motori di ricerca! Dopo 15 anni, Palmieri! E però Palmieri dà a Berlusconi 8 in internet. Il voto è alto per una persona che nel 1995 ha detto Forza Italia deve andare in internet. L'ha detto 15 anni fa. Il voto è sicuramente 8, certamente 10 quando è stato a navigare evidentemente. Ancora Palmieri, lo voglio sentire tutto. Se devo dirne il più corto, che sì, è uno di quelli che abbiamo messo anche nella terza di copertina, è Silvio non ti ferma neanche la criptonite. Teatrino della politica. E allora, sempre protagonista quando c'è da litigare in qualche trasmissione, Daniela Santanchè. Sentite cosa dice a Oliviero Obea, i buchi nel cervello. Se c'è un buco, Berlusconi lo sta riempiendo e lo nasconde alla vista degli italiani. Dopo sarà addirittura peggio perché saremo costretti a fare i conti con un buco. Da te che un buco Tremonti sta tenendo in ordine i conti dello Stato come non ci sono precedenti. Che c'entrano i conti con il buco di una nazione? Ma che buco della nazione? Il buco c'è qualcuno che ce l'ha nella testa, allora, che è una cosa diversa, della appartenenza. Qualcuno ce l'ha nella testa, siamo al teatrino puro. Sentite ancora la Santanchè. Io il mio stipendio quando l'ho preso dallo Stato l'ho sempre devoluto in beneficenza, non l'ho mai preso. Dopo quello degli appalti poi ne parliamo dopo. Io non sto esportando il sistema Puglia, che peraltro le garantisco è uno dei migliori che conosco. Le stavo parlando solo dello stipendio, so che lei si arrabbia subito se uno le vuole diminuire lo stipendio, però ho fatto la proposta. Io non l'ho mai preso il mio stipendio, a differenza sua l'ho sempre devoluto. Ha fatto bene, non c'è tracciabilità del fatto che io mi sono fatta mantenere. Però le ho fatto una proposta. Va bene, 800240024, risentiamo alcune frasi del giorno. Germano, l'attore che ha vinto a Cannes, che dedica il premio agli italiani che sono meglio della loro classe politica. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. Come i nostri governanti in Italia rimproverano sempre al cinema di parlare male della nostra nazione, io volevo dedicare questo premio all'Italia e agli italiani che fanno di tutto per rendere l'Italia un paese migliore, chi nonostante fa la loro classe dirigente. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia e poi naturalmente Bersani versus Gelmini. Io sono per far uscire da quest'assemblea l'idea di una figura eroica, quelle di quelle insegnanti che nei grandi quartieri urbani o nelle città degradate in tanti luoghi d'Italia vanno a inseguire il disagio sociale, a tener fermo il bambino, a vedere che non vada via, mentre la Gelmini le rompe i coglioni. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre. E concludiamo con Walter Veltroni che in puro stile dietrologico dice: dietro l'Italia c'è una sorta di grumo che attanaglia questo paese, i complotti, le... sentiamo. Parlare di queste cose certamente vitali per certi versi è paradossale, perché stiamo parlando di fatti avvenuti quasi 20 anni fa. Cioè, distolgono, come dire, dal parlare della criminalità organizzata del presente. No, guardi, è la stessa storia. È la stessa storia. È la storia del grumo che attanaglia e che corrode questo paese. Questo è un paese divorato da questi centri oscuri, dai fabbricatori di dossier, da quelli che alimentano circuiti perversi di rapporto tra politica e criminalità. Dalle agenzie, la banda della Magliana, piuttosto che una parte dei servizi. Ma questo grumo si è manifestato sempre nella storia italiana. L'Italia che si dispera. Vabbè, poi naturalmente se volete parlare della manovra economica oppure se volete parlare del tema delle intercettazioni che ormai va avanti da diverso tempo, siamo qui, pronti ai vostri interventi. Adriano da Milano, buonasera. Eccolo qua, buonasera, però mi ha praticamente stemperato gli aculei, perché il mio rimprovero era se dovevamo perdere tanto tempo a parlare di una, scusi, di una cazzata detta in maniera tra... Adriano, Adriano, mi perdoni, lei può fare tutti i rimproveri che vuole, io gliene faccio subito uno: abbassi la radio altrimenti, o la spenga, perché altrimenti la sentiamo in duplex. L'ho fatto in maniera simpatica perché lei è una persona simpatica e divertente. Spesso però mischia delle cose molto importanti, come l'ultima di Veltroni, anche se detta con quell'aria da uno che ha la conoscenza, però questa è una cosa gravissima. Io lo faccio apposta, io mischio delle cose, metto insieme delle cose, se vuole, irrilevanti, come quella di Bersani con la Gelmini, con delle discussioni, se vuole, più simpatica, eccetera. Devo perdere tempo a parlare di una cosa che è una quisquidia, tra l'altro anche semanticamente rompere i coglioni è una cosa che non fa più paura a nessuno, non l'ha mica detto in Parlamento. Se lei sentisse, sentirà sicuramente quante cazzate vengono dette in Parlamento, questa è una cosa veramente da niente. A parte che per un ministro che si permette il lusso di dire, questo qui è il ministro dei paesi dei balocchi, perché l'ultima trovata è che rimandiamo le scuole perché serve il turismo. Ma questo veramente rompi i coglioni, mi scusi, e lo dico sempre fra virgolette. Come rimandiamo le scuole perché? Rimandiamo le scuole? Perché aiuta il turismo. Possiamo sì, questa è una stronzata, Adriano. Possiamo pubblicizzare il libro di Collodi e farlo diventare, nei suoi aspetti, del paese dei balocchi, una constituency della politica. Vabbè, adesso stiamo entrando nel merito, però, Adriano, secondo lei il fatto che Bersani dica che la Gelmini è una rompicoglioni può fare parte del dibattito politico? È una cosa così grave, anche perché tra l'altro ha voluto marcare il tono sulla differenza di importanza che c'è fra la funzione di questi poveri insegnanti, che a volte mi fanno ridere, ma a volte veramente meritano rispetto, con questi atteggiamenti del ministro, che potranno essere condivisi, però non facciamone una questione di Stato. Abbiamo cose, ho capito, Adriano, ho capito, grazie. Eccoci qui, 1933 800 24 00 24, andiamo a sentire altri ascoltatori. Fulvio da Forlì, buonasera. Sì, pronto, Fulvio? Buonasera. Buonasera, dica. Pronto? Sì, buonasera Cruciani. Ascolti, sarò rapidissimo. In merito all'intervento di Bersani e di tutti gli ascoltatori che mi hanno preceduto cercando di giustificare le parole. Ma Bersani sa quanto ha rotto i coglioni a noi? Ma qua, a me personalmente, poi non le dire, e a tutti, guardi, ha rotto i coglioni a non finire, ma una volta che gli andasse bene qualcosa, tutte le proposte che fa il governo, non ce n'è una, la manovra è insufficiente, e quello non va bene, e quell'altro non va bene, ma basta, ma che se ne stia buono un po', tutto qua. Però Fulvio, lei parla da tifoso più o meno del governo, comunque da non simpatizzante di Bersani, è normale che lei dica Bersani è un rompicoglioni, non apprezza nemmeno una cosa di Bersani? No, ascolti, Cruciani, ha ragione, io parlo da tifoso, ma sai che cos'è? Sono loro che ci fanno diventare tifosi, sono questi qua che ci fanno, che in continuazione, perché con il loro comportamento ci fanno ancora andare più a destra, e dopo lo so che il clima arroventato è questo qui, allora questi qua offendono in continuazione e la passano sempre per satira. Allora, cominciamo a offendere anche noi, insomma è questo che vogliono, lo scontro aperto, ma basta, ma che se ne stiano a casa. Tutto qua. Va bene, Fulvio, grazie. Si è sfogato Fulvio da Forlì, Luciana dalla provincia di Venezia. Sulla questione delle intercettazioni trovo inattaccabili alcune parole di Giuliano, so che non siete d'accordo voi, però ve le leggo lo stesso, di Giuliano Ferrara oggi sul Foglio. Sarebbe gradita una risposta a un semplice quesito. Chiunque legga una decina di giornali, quotidiani o settimanali stranieri, in lingua francese, tedesca e inglese, non è mai, si dica mai, mai nella vita, incappato nelle lenzuolate delle intercettazioni di cui si parla, che sono l'oggetto della contesa, che sono il succo dei pezzi e delle paginate pubblicate in italiano dai nostri giornali e poi sceneggiate con doppiatori nel modo più suggestivo e drammatico possibile nelle trasmissioni televisive più sporcificanti del mondo. Mai. E perché? Perché altrove non si intercetta? Perché altrove non si delinque o non si indaga? No. Semplicemente per questo, perché altrove, anche dove esistono mafie e criminalità organizzate, anche dove accadono fenomeni di lobbying e di corruzione politica, non si usa pubblicare lenzuolate di intercettazioni come materiale per l'intorbidimento delle acque, per la grande sputtanopoli che tutto confonde in un generico e demagogico disprezzo per la vita privata delle persone pubbliche. È così e non c'è niente da fare, questa considerazione è inattaccabile, come sono inattaccabili le parole oggi, come al solito, di Luca Ricolfi sulla Stampa a proposito della questione delle intercettazioni e delle responsabilità dei giornalisti su questa vicenda. Oltre, naturalmente, Ricolfi non è che parla solo di questo, parla anche di un disegno di legge sbagliato per tanti motivi. Lia da Pescara, buonasera. Buonasera. Allora, dica. Io volevo intervenire a proposito della frase detta alla Gelmini, che io ritengo insomma non, offensiva fin di e fin là, tanto ormai non ci si meraviglia più di niente. Quello che io volevo dire invece è questo, cioè io sono un'insegnante e ho visto, sono oltretutto un'insegnante di ruolo da 30 anni, quindi ho visto anche tutto l'iter che ha avuto la scuola italiana dai tempi miei fino ad oggi, e posso dire che veramente oggi dire che la Gelmini ce l'abbia con gli insegnanti vuol dire semplicemente che ce l'ha con quegli insegnanti che ormai non vogliono essere più toccati per tutti i privilegi, per tutte le loro belle cose che si sono accomodate, perché l'anno scorso ad esempio la Gelmini ha fatto ha fatto in modo che l'orario per esempio dell'insegnante, che dovrebbe essere insegnante intendo di scuola secondaria, di 18 ore settimanali. Questo vale per tutti, ma ci sono delle materie di insegnamento per le quali questo non valeva, tipo per esempio l'insegnante di italiano nella cattedra di italiano ha 15 ore di Sì, però Lia, io non voglio entrare adesso, non voglio entrare nel merito della situazione all'interno di una scuola particolare o di un settore particolare. Anche secondo me il ragionamento politico di Bersani condensato in quella frase che abbiamo ascoltato non è granché, perché dire che la Gelmini rompe i coglioni alle insegnanti che sono sul territorio, che soffrono e che guadagnano poco, è una cosa piuttosto generica. Dunque su questo sono d'accordo con lei, al di là poi dei problemi specifici che lei ci sta elencando. Paola d'Alessandria, la ringrazio, mi rivolgo alla signora di Pescara. Passiamo ad un'altra donna, Paola Alessandria, buonasera. Buonasera Cruciani, mi devo ancora riprendere dall'intervento dell'ascoltatore precedente perché mi ha fatto ammazzare da ridere. Dunque, io quello da Forlì. Sì, che Bersani gli ha rotto i coglioni. Vabbè, d'accordo, ognuno ha le sue idiosincrasie, io ne ho tante. Io invece volevo rilevare il fatto che la frase di Bersani si riallaccia un po' a quella di D'Alema quando ho detto vai a farti fottere il giornalista, nel senso che secondo me ultimamente la sinistra si sta un po' avvicinando ai sistemi di comunicazione di Berlusconi, che è molto molto vicino al linguaggio comune, nel senso che io mi sento dire continuamente che sono una rompicoglioni e la cosa mi inorgoglisce, perché soprattutto detto nell'ambiente di lavoro, se rompicoglioni vuol dire che qualcosa di concreto. E infatti Paola, No, infatti Paola, Rosy Bindi alla conclusione del suo intervento ha detto: beh, insomma, io apprezzo anche il fatto che la Gelmini in realtà poi non se la sia presa troppo, comunque ha evitato di fare la vittima su una cosa del genere, ha detto non voglio commentare, perché magari insomma si sente inorgoglita dal fatto che il capo dell'opposizione le ha dato della rompicoglioni, no? Infatti io sono... Cioè, solo lei si sente... Dire, lei qualcuno, quando qualcuno le dice lei rompicoglioni... Sì, sia nella vita privata, perché vuol dire che non sono lì passiva, no? Ma soprattutto certo, nel mio posto di lavoro, perché comunque vuol dire che la mia azione in qualche maniera... Una che ci tiene, magari pignola, una persona attenta, pignola, no? Rompicoglioni, ecco, come si dice in gergo. Sdoganiamo, diciamo, questa tutti parola! Sdoganiamo, bravo! Sdoganiamola, cara Paola, e poi, è vero! Posso dire un'altra cosa? Sì, no? Il problema vero, senza entrare nel merito, è che mentre Berlusconi a volte diciamo risulta simpatico, io rilevo questo. D'Alema, ad esempio, ha detto vai a farti fottere al giornalista quando ha parlato di cose sue personali, e quindi è stato secondo me un boomerang. No? E Bersani lo stesso, perché io ad esempio a scuola rompi coglioni dagli insegnanti, me lo sono sentito dire mille volte, e sono in parte d'accordo con quell'intervento dell'ascoltatrice precedente, che dice che poi in fondo tutti siamo stati a scuola, e insomma la scuola secondo me è molto carente in Italia, lo era già 30 anni fa quando andavo a scuola io, e figuriamoci tutti questi 3 mesi di vacanze eccetera eccetera, a fronte di una mancanza a volte di preparazione. Ovviamente non mi piace generalizzare, perché ci sono anche però al di là di questo ragionamento, Paola, mi sembra di poter dire una cosa: dare del rompicoglioni a qualcuno poi non è che sia questa offesa, tutt'altro. Insomma, lei me l'ha fatto capire ancora meglio e la ringrazio per questo, Paola. Anche a me, quando mi dicono quello rompicoglioni, ma in fin dei conti poi sono contento. Quando uno mi dice quello rompicoglioni, sì, è vero, bisogna inorgoglirsi per una cosa di questo tipo e non offendersi. Chissà che non si sia inorgoglita anche la Gelmini. Luciana, provincia di Venezia, anzi sì, Luciana, provincia di Venezia. Luciana, sì. Buonasera. Sono Luciana della provincia di Venezia. Pronto, prego. Mi sente? La sento molto bene. Ecco, allora, io volevo dire qualcosa in merito alla Bindi. Sì, perché dica avete qualcosa sulla oggi, Bindi. Avete esordito con la sua dichiarazione, eccetera. Dunque, la Bindi è bravissima ed è maestra a mischiare le carte. Con lei, lei ce l'ha con la Bindi, cara Luciana. No, ce l'ha con la Bindi. Siamo stanchi di queste persone che parlano politicamente. Che cosa ha fatto? Che cosa ha detto? Cosa ha detto, allora, che non le sta bene, Luciana? Me lo spieghi. Ho ascoltato la frase di Bersani, l'ho sentita mille volte. Sì. E allora? E l'offesa che ha fatto Bersani alla Gelmini era diretta alla Gelmini, non era un'offesa politica, perché ha detto la insomma adesso Gelmini, Luciana, non esageriamo, rompe i coglioni. Ma no, quindi non ha detto questo. Io non mi scandalizzo per la parola, perché per carità, anzi, ben venga, finalmente si stanno umanizzando anche loro, no? Si stanno umanizzando anche loro, anche lei mi tradisce una simpatia, anche loro e noi, perché Luciana? Loro, perché certo, loro e noi? Perché erano tutti per Benino prima, no? Non si loro chi? La questo. Sinistra? Loro chi? Loro, cara Luciana, loro chi? I vecchi, no, i vecchi politici, quelli della vecchia guardia. Ah, i vecchi, dice lei, quelli della vecchia guardia, Bersani. Politica, che hanno vissuto solo di politica. E per quanto riguarda invece, facciamo par condicio, la manovra finanziaria, bene fa Letta e anche Bonaiuti a cominciare a rassicurare gli italiani che non vengono toccate le tasche dei cittadini, che non vengono, perché in caso contrario... No, veramente Letta ha detto che ci saranno dei sacrifici duri, non ha detto proprio... Duri, ma che non vengono toccate le pensioni, ecco, quindi stanno già mettendo le mani. Ma chi le ha mai toccate le pensioni in Italia? Fanno bene a far così, perché in caso... Beh, non è troppo par condicio, non è troppo par condicio. Lei dice che Letta ha detto delle cose giuste. Vabbè, Luciana, la ringrazio. Grazie, Luciana, di questo intervento. Siamo in collegamento con Napoli, con Pasquale Sommese, assessore al personale della Regione. Buonasera. Buonasera. Sommese, cosa mi combina? Lei perché non vuole rinunciare all'auto blu? Perché? Me lo spieghi bene, perché è incomprensibile alla gente. No, lei... no, anzi. Come anzi? Io ho svolto 5 anni il ruolo di Presidente della Regione e della Commissione regionale. E rispetto a tutti sono stato quello che ha usato la macchina di servizio in varie occasioni. Però al di là di questo, scusi un attimo, sommese. No, giusto per chiarire. No, ma io non lo conosco il suo passato, io leggo qui una cosa. No, l'auto blu è un falso, l'auto blu è un falso problema. Però no, leggo nello stesso tempo che altri suoi assessori, tra cui il presidente, non solo rinunciano all'auto blu e vanno in regione con la propria auto, sì, ma dicono che la regione Campania deve diventare una regione deautobluizzata, diciamo così. Perché lei invece dice un falso problema? Ho posto un altro un falso problema, perché e perché è un falso problema? Un'amministrazione che si insedia dove parlare di sprechi quando si riferisce, si banalizza un problema serio all'auto blu, alle 12 auto o 10 auto degli assessori, mi sembra un problema, un falso problema. Però mi scusi un attimo, sommese, se il presidente va, se il presidente Caldoro va alla regione con la sua auto, se altri assessori vanno con la propria auto, perché lei con la mia auto? Come lei dice che non vuole rinunciare allora, all'auto blu? Ho posto un problema perché rispetto ai tanti annunci, abbiamo abituato un poco l'opinione pubblica ai tanti annunci, e l'onestà della parola è quella di dire cosa si pensa veramente. E certamente quando noi parliamo di spreca, riferita agli sprechi, ai costi della politica, e noi la vogliamo ridurre e banalizzare una cosa seria, che sono le tante partecipate, i tanti sprechi che si stanno registrando. E però sommese, lo sappiamo che la questione dell'auto blu non risolve chissà no, che poi, cosa. Oltretutto, io però questo è un po', un discorso da benaltristi, cioè ci sono altri problemi. Cominciamo dalle piccole cose. Allora, anche, no? Io ho posto un problema di onestà, perché se noi il primo giorno iniziamo a creare per solo demagogia e dare in pasta all'opinione pubblica suggestioni, non affrontare i problemi seri, era questo, perché chi parla poi tradotto giornalisticamente, Sommese non l'ha, no, Sommese non l'ha mai usata la macchina blu. Il problema personale non c'entra, parliamo. No, però scusi un attimo, Sommese, scusi un attimo, sì. Io leggo qui un'intervista che lei ha dato al Corriere, sì, del Mezzogiorno. No? Ma deve leggere quella, l'intervista, non il titolo. No, no, l'intervista leggo, l'intervista. L'auto blu è un aspetti un attimo, problema. aspetti. Assessore Sommese, lei non rinuncerà all'auto blu, e no, perché no, dovrei? Gli autisti sono dipendenti dalla regione, le auto sono della regione, tutto già pagato. Lo spreco sarebbe agire in senso contrario, non utilizzare ciò che si ha. Beh, insomma, le macchine, le persone possono essere utilizzate anche in modo diverso. Innanzitutto risolviamo una cosa, Sommese. Lei, se le dicessero che lei è un rompicoglioni, come risponde? Cioè, la vede come un'offesa oppure come un complimento? Dipende l'argomento. Se è un argomento come questo, noi per cultura politica tendiamo di portare non suggestioni, tendiamo di portare al centro del dibattito le cose serie. E l'auto blu, la rinuncia all'auto blu non è una cosa seria? Non è un problema. Il presidente Caldoro appena si è insediato, a parte che lui ha dato l'esempio, ma per convinzione, non per moda e ola, noi faremo e tenteremo di portare al centro i comportamenti veri più che gli annunci, e io su questo ho ritenuto di dire che gli sprechi non è le 12 auto blu con gli autisti che già ci sono e le macchine che già ci sono. Il problema è chi la vuole utilizzare per servizi. Il problema è chiarire in modo corretto cosa significa auto blu, cosa significa l'auto di servizio. Se nell'espletamento delle funzioni c'è bisogno, senza esagerare, della macchina di servizi, ben venga. Se noi parliamo di auto blu per farne degli sprechi, io ritengo che non sia corretto. Però mi scusi, perché lei parla di rinuncia all'auto blu come una cosa di moda? In realtà non mi sembra troppo di moda questa rinuncia all'auto blu, abbia pazienza. No, insomma, no, la rinuncia dell'auto di servizio. Dell'auto di servizio, dell'auto blu, insomma, per capirci. Io ritengo che noi dobbiamo iniziare in questo avvio di legislatura un linguaggio vero. Siamo stati abituati a tanti annunci che non hanno poi avuto seguito con i fatti. Se noi non iniziamo un percorso corretto e dove l'auto di servizio, se serve effettivamente per svolgere dei ruoli istituzionali, io credo che ben venga. Ce l'abbiamo. Abbiamo gli autisti e quindi rispetto a questo ben venga. Se l'auto blu diventa un simbolo o diventa un qualche cosa, ecco, diventa auto blu, non auto di servizio. Noi siamo per l'utilizzo dell'auto di servizio. Però mi scusi, Sommese, questo l'ho capito. Lei dice si può utilizzare l'auto blu solamente per cose istituzionali, non per andarsi auto a fare servizio. di servizio, vabbè, insomma, bianca, le auto blu sono considerate da tutti e conosciute come auto blu, ma non in senso negativo, sì, però hanno assunto questa espressione, anche la mia. No, certo, questa espressione ha assunto un senso negativo perché in Italia ce ne sono troppe. Ora, se si cominciasse, sì, sono d'accordo. È d'accordo, lei è d'accordo sul fatto che ce ne sono troppe, no? Ce ne sono tante. D'accordo. Allora, e non le ho utilizzate nei 5 anni, ma è stato il presidente di commissione che l'ha utilizzata di meno. Di meno, però l'ha utilizzata. Sì. Ma e mica, a Roma sono andato sempre col treno. Mica un delitto, mica un delitto utilizzarla, sto dicendo. No, ma voglio dire. Però quando lei risponde, mi scusi un attimo, quando lei risponde, la ventina di macchine di servizio in dotazione alla giunta regionale, le lasciamo marcire in garage e degli autisti in servizio, sì, che le facciamo? Li licenziamo o li mandiamo in cassa integrazione? Uno può rispondere, vabbè, gli autisti, se sono assunti alla regione, certo non possono essere licenziati. Saranno riconvertiti. La ventina di macchine di servizio in dotazione aggiunta, insomma, spero che saranno in leasing. Se ve le siete comprate, peggio, sì, per voi. Sì, sì. No, no, sono. E uno le può restituire, insomma, non no, è quello, no, il punto. Sì, sì. No, voglio dire, ci deve essere un piccolo segnale. Se il presidente Caldoro va con la sua Skoda, credo che abbia una Skoda. Noi questo penso che lo invertiremo. Cioè, se le macchine che ci sono, che certamente serviranno sia per i dirigenti sia per gli assessori, ma credo che mi rendo conto che in un momento di difficoltà dell'opinione pubblica, di tanti sacrifici che a partire dalla politica, giustamente ai dirigenti che dovranno, sì, ridursi lo stipendio eccetera, immaginare anche la suggestione di un momento, di una voce che incide lo 0,001 sul bilancio, non so se è, non è questo lo spreco. Però io mi scusi un attimo, sì, Sommese, sì, ma in generale tra politici, sì, dirigenti, sì, mi dia una cifra esatta, alla, sì, regione Campania, non è, lei non è un novellino, insomma, della politica. Sì, non quante, sono 5 anni. Quante auto blu ci sono? Ma io lei è assessore al personale, lo saprà, no? O no? In questo io sono, diciamo, oggi è il primo giorno effettivo che entriamo nella funzione. Ho capito, è assessore al personale, saprà, ci, sì, sono tot auto blu, abbiamo tot. Io auto blu. Parlavo degli assessori, poiché mi è stata rivolta. Sì, io quello ho capito, ma lo saprà quante auto di servizio ci sono nella regione ma Campania? Ma penso una ventina. Penso, deve ancora studiare, diciamo, da questo punto di vista. No, una ventina, perché 12 assessori e quindi, diciamo, in linea di massimo 20. 20? Cioè, sì, si può rinunciare a qualcosa, sì, o no? Certamente, è una cosa che faremo, già rinunciato il Presidente, rinunciamo parecchi di noi, l'utilizzo sarà, ove serve in modo istituzionale la rappresentanza, si utilizza la macchina, ma certamente farlo diventare uno spreco, farlo diventare un simbolo, non siamo d'accordo, c'è un principio questo. Ho capito. Ci sono, e quindi noi ci limiteremo a questo perché il Presidente Caldoro è stato molto chiaro col suo esempio. E va bene, ho capito. Allora, un'ultima cosa, quando il capogruppo del PDL, ma lei, sì, dell'UDC, Martuscello, sì, dice che la Campania deve essere la prima regione deautobluizzata, dice una stronzata, dunque, secondo lei? Io credo che noi dobbiamo dire le cose, bisogna pensarle sempre e non dimenticarle mai, e non dirle a giorni alterni, mi limito a questo. E dunque Martuscello lo dice una volta lo dice, una volta, diciamo, non lo dice. Che andiamo a vedere se l'ha utilizzata nei 5 anni precedenti, ci sono le riconversioni, quindi io non lo so, ma dico, la mia battaglia, ripeto, non, sì, è verso la macchina, non è un problema. È contro la demagogia, lei dice. Contro la demagogia. Noi ci sediamo da qua a due giorni, dobbiamo usare linguaggi veri. Perché io vengo da un partito che, diciamo, culturalmente, storicamente, abbiamo sempre immaginato di dire le cose che pensiamo, e la nostra tradizione, la dici, che è quella cattolica, sì, democratica, sì, ci ha sempre insegnato di dire le cose che si pensano, più o meno, insomma, non dimenticarle. Ecco. Senta, una battuta fantastica di un ascoltatore, però io la devo riferire, assessore, sì, Sommese. Sommese, due punti, auto blu, mi piaci tu. Non è male questa, è molto carina. No, ma io non l'ho usata. Vabbè, ma mi scherzi, mi scherzi. Persona. Mi ci scherzi su questa cosa? Sommese, sì, due punti, auto blu, mi piaci tu. È molto bello. No, devo è perché non l'ho mai utilizzata io. Aridaie sta facendo una battaglia per evitare demagogia, per evitare che poi, vabbè, nascono contraddizioni. Lei quante volte la usa? Gli sprechi. Quante volte la usa l'auto blu? Ma io tuttora sto utilizzando la mia macchina. Che macchina ha lei? Sommese, che macchina? Io ho una vecchia. Lo sa che io non ricordo neppure il titolo della macchina, perché è Sommese, come macchina fa a non ricordarsi il nome della sua macchina? No, è una Mercedes 200, 316, quant'è? vecchio stile, a chi lo sta chiedendo? 15 anni. Ce l'ho da 15 anni, la vecchia macchina, mo non so neppure quale. A chi lo però sta chiedendo? Dire, perché la macchina per me è stata sempre un momento di lavoro, non un momento di. Quindi ha sbagliato persona. No, ma io non sto sbagliando persona. È lei che ha fatto quelle dichiarazioni, non ho sbagliato nessuno. Sì, ma sono dichiarazioni che ritengo che siano utili come linguaggio. No, da questo qua, per carità, questo lo valutiamo. Sì. Per carità, ma non è che non la vogliamo mettere, non la vogliamo crocifiggere, insomma, se non si preoccupa. No, ma non però è Auto Blu mi piace tu, è bellissima, in ogni caso no, è bellissima. Auto Blu non la uso, io uso non la uso tu, non la usi tu. Ripeto, noi dobbiamo porre una corretta informazione, cosa che lei sta facendo, e l'occasione che mi dà di evitare linguaggi demagogici e poi combattere i veri sprechi. I veri sprechi, non c'è dubbio, diciamo che la storia sui veri sprechi va avanti da tantissimi anni, ma va bene, per carità, Sommese, io sono d'accordo con lei, i veri sprechi, le auto blu sono una parte piccola, diciamo, del bilancio, eccetera. Però ripeto, auto blu mi piace, Sommese, lei due mi punti, sta dicendo, auto blu mi piace tu, è bellissimo. Diamo un'interpretazione vera, una regione Campania, se lei vede un piccolo comune, se lei vede le migliaia di partecipate regionali, dotate di parchi macchine blu, quelle... Fatelo. Campania, se utilizza quelle poche macchine per veramente funzione, per il servizio, io credo che l'autorizzazione a fare questo sia una cosa meritevole. Va bene, sono d'accordo con lei, però tagliateli gli sprechi, fatelo subito, senza non aspettate. Dubbio, lo stiamo facendo. Vedremo. Senta, Sommese, 300 che macchina ha lei? Ancora non ho capito. Io ho una Mercedes 15 anni e non ricordo neppure precisamente se è 316. La mia è nero-blu. Beh, nero-blu quello è ma ce l'ho da 15 anni però. Una Mercedes vecchia di 15 anni. Di 15 anni. Vabbè, lo chieda là, lo chieda al suo assistente, che macchina a chi è intorno a lei? Non c'è. Se n'è andato, vabbè. Mercedes, siamo curiosi, Mercedes 316, esiste la Mercedes 316? Sì, non lo so quale... Vabbè, non lo sa, sono mesi. È una 15 anni, c'ha 15 anni, sicuro. C'ha 15 anni. Questo. Va bene, grazie. Dimostrabile. E chi lo vuole contestare? Per me la macchina è uno strumento di lavoro e io mi auguro che anche la Regione Campania possa avere questa cultura, che la macchina di servizio debba servire veramente di rappresentanza e di lavoro. Va bene, grazie, buonasera. Grazie a lei. Cambi la macchina dopo 15 anni. Grazie, inquina grazie. Troppo, 19:56:30, Sommese due punti, auto blu, mi piaci tu. Sacrifici spero per poco, Napitano interventi equi per tutti, Barroso al TG5, bene le misure italiane. Intercettazioni, PDL aperto a modifiche in aula, il PD vedremo, fermo no dei giornalisti. Confalonieri, in passato abusi da giornalisti e magistrati, ora non si esageri in senso opposto. Sono distrutta e dispiaciuta, così Sara Ferguson dopo lo scandalo della mazzetta da mezzo milione di sterline. Il principe Andrea, io non ne sapevo niente. Agli arresti domiciliari le due maestre dell'asilo Cipe Chop di Pistoia, riprese dalle telecamere mentre maltrattavano i bambini. Vacanze scolastiche prolungate a fine settembre per favorire il turismo. La proposta di un deputato PDL scatena la polemica. Ma come la pensano mamme e prof? Ecco i segreti della gang specializzata in furti di fuoriserie su quattro ruote, il film del furto della Bentley di Costantino Vitaliano, ritrovata e restituita. E va bene, questo era il TG5, andiamo a sentire il TG1. Domani il Consiglio dei Ministri sulla manovra da 24 miliardi. Letta, saranno sacrifici duri ma spero provvisori. Napolitana Washington, sacrifici distribuiti con equità. Mi auguro che l'opposizione condivida misure della maggioranza. Appello dei Vescovi contro la crisi, impegno bipartisan ed una politica che pensi ai figli e al lavoro. Evitato uno scontro tra aerei sulla pista di Cagliari, una manovra sbagliata o un'errata autorizzazione, la causa. Il ritorno del flipper. A Milano un collezionista organizza raduni per gli appassionati di un gioco considerato fuori moda. Scandalose al top, in Inghilterra Sara Ferguson intercettata, in Francia impazza un video con le gaffe di Carla. Mira torna con un nuovo disco, Caramella. Grande soddisfazione del cinema italiano per la vittoria a Cannes di Elio Germano. Ricomincio da capo, vado a lavare i piatti. Vai a prendere altre tovaglie e don't break my ball. Non ho afferrato, scusa. Non mi rompe i coglioni. Ho afferrato benissimo, va. Ha afferrato benissimo Lino Banfi, il... rompicoglioni in un film strepitoso di qualche anno fa. Bruno da Padova, buonasera. Buonasera. Buonasera Bruno. Buonasera Cruciani. Prego. E va bene, è andato via Antonio da Milano. Antonio? Conto, eccoci buonasera. Qua. Io volevo intervenire sulla frase di Germano che ha detto ieri sera a Cannes sulla inadeguatezza della classe dirigente italiana. Allora, io parto dalla mia esperienza. Io sono un quarantenne e sono stato dirigente, un piccolo giovane dirigente di una multinazionale. Poi ho deciso di cambiare vita. Ritengo che lui abbia perfettamente ragione, perché la mia esperienza è stata di una classe dirigente che manca di una prospettiva, non dico a lungo termine, ma di una prospettiva almeno a breve a medio termine. Ritengo che essere dirigenti, e questo è quello che manca in Italia, in generale, poi ci sono le dovute eccezioni, è un'assunzione di responsabilità, perché hai nelle mani il destino di persone, di famiglie, di un paese, proprio perché sei una classe dirigente. Io trovo che, a parte qualche eccezione, non trovo questo senso di responsabilità, vedo lotte di potere, veramente una visione a breve termine, macchine, avere privilegi e quant'altro. Anche a me piaceva avere una bella macchina e quant'altro, però dietro tutto questo, secondo me, c'è un'assunzione di responsabilità. E sì, però mi scusi Antonio. Antonio, io sono d'accordo con lei sulle critiche che lei fa alla classe politica italiana, però francamente è abbastanza ridicolo e anche stantio, è qualcosa di ripetitivo sentire un giovane attore di 29-30 anni come Germano che prende la Palma d'Oro a Cannes. L'unica dichiarazione che si sente di fare è: dedico questo premio agli italiani, quelli che lavorano a dispetto di una classe politica inefficace, inefficiente, insomma, adesso non ricordo esattamente la parola che ha utilizzato. Insomma, francamente io credo che naturalmente poi l'accusa non può essere rivolta a tutta la classe politica, ci sono dei bravissimi parlamentari che fanno il loro dovere, che lavorano seriamente, per cui insomma sono quelle frasi un po' demagogiche così buttate davanti alla platea di Cannes che possono naturalmente poi suscitare degli applausi o delle, però insomma non mi pare un qualcosa di particolarmente originale, ecco. Allora, guardi, su quello posso essere d'accordo con lei, che non c'è niente di particolarmente originale, ma ritengo che noi in Italia probabilmente non abbiamo bisogno di un qualcosa di proprio originale. Io ritengo che richiamare la classe dirigente, ma non solo la classe politica, guardi che io sto parlando della classe dirigente in generale, industriale, richiamare a un senso di responsabilità, a una pianificazione, ad avere una visione, proprio perché dovrebbero essere i migliori queste persone. Sì, no, ma ho capito Antonio, lei l'ha sentito come richiamo da parte di Germano che vince la Palma d'Oro come miglior attore, eccetera, l'ha sentito come richiamo sferzante alla classe politica italiana, ma insomma, io non ho avuto questa impressione. Bene, la ringrazio, la frase esatta è: dedico questo premio all'Italia, agli italiani che fanno di tutto per rendere il paese migliore nonostante la loro classe dirigente. Ma siamo poi così sicuri che gli italiani, tutti gli italiani fanno di tutto per rendere il paese migliore? Marco da Reggio Calabria, buonasera. Buonasera Marco. Dottor Cruciani. Buonasera. Eccoci. Dottor Cruciani, mi sente? Dica, la sento Marco. Volevo semplicemente fare un commento e sapere anche il suo punto di vista relativo a quella legge sulle intercettazioni, non sì. Tutta la legge, ma in particolare quella che riguarda, siccome siamo da Reggio Calabria dove è molto forte il fenomeno criminale, quando si presenta un delinquente in un negozio che chiede il pizzo, e secondo la legge se io lo dovessi registrare come prova e commettere un reato andrei in galera, lei come la pensa, come la vede questa legge? Adesso non so se l'effetto sia proprio quello che dice lei. Comunque mettiamo che sia così. La parte che riguarda le registrazioni sono totalmente d'accordo con lei, Marco, ma anche la parte che riguarda le limitazioni che ci sono alla possibilità di intercettare, secondo me qualsiasi restrizione ulteriore che viene fatta è negativa per le indagini, ma insomma questo è stato rilevato da più persone. Però il vero problema è questo, non quello secondo me dell'informazione. Ci sono norme sbagliate anche nella parte che riguarda l'informazione. E però le voglio leggere quello che oggi Luca Ricolfi ha scritto sulla stampa, che secondo me è condivisibile al 100%. I giornalisti troppo spesso dimenticano che sono anche i loro comportamenti ad aver appiccato l'incendio che ora rischia di bruciare tutto e tutti. Quante volte abbiamo letto, ascoltato la radio, visto in televisione veri e propri processi di piazza? Quante volte presunti innocenti sono stati trattati come sicuri colpevoli? Quante volte abbiamo letto ricostruzioni tendenziose, accuse oblique, teoremi privi di soldi di scontri? Quante volte la vita di persone strane alle indagini è stata sconvolta dalla pubblicazione delle intercettazioni? Eccetera, eccetera. Mi piacerebbe che noi fossimo capaci di autoregolamentazione, sarebbe la via preferibile. Però non ho molta fiducia né nella nostra capacità di darci codici su cui attenerci, né nell'ordine dei giornalisti, con rammarico lo dico, perché vorrei che ce la cavassimo da soli. Credo si debbano accettare forme di tutela legale della privacy. Questo l'ha detto Giulio Anselmi, che è stato presidente dell'ANSA, in un'intervista al Fatto Quotidiano di qualche giorno fa. Alessandro da Taranto, grazie Marco. Alessandro, prego. Sì, ci sono, buonasera. Buonasera. Buonasera Luciani. Senti, io anche volevo parlare delle intercettazioni. Come al solito, insomma, io penso sia scontato il fatto che le proposte di legge che sta circolando in questi giorni, che apprendiamo dai giornali, sia assolutamente vergognosa, ma più che vergognosa, addirittura pericolosa per il nostro sistema giudiziario. Ma diciamo, questo è fuori discussione. La cosa incredibile è che in Italia non ci sia un'opposizione capace di impedire che questo avvenga. Trovare le soluzioni ai problemi è molto... Ma semplice. Questo non è vero, Alessandro. Mi sembra che l'opposizione, dal suo punto di vista, sta facendo il suo mestiere in questo frangente. Non mi pare che le cose siano come lei le racconta. Questa legge vada avanti in questo modo. No, mi scusa Alessandro, l'opposizione ha promesso di fare una battaglia fortissima su questa legge, per cui cosa rimprovera l'opposizione? Questo francamente non lo capisco. Ha promesso di farla, ma io non la sto ancora vedendo. Ma ho capito, ma che cosa dovrebbe fare? Appiccare fuoco al Parlamento? Mi scusi Alessandro, adesso no, quando arriverà in aula... Secondo me fare delle proposte alternative. Guarda, io dico molto semplice. Problema fare è proposte alternative in che senso? No, questo è interessante. Alessandro, però se lei mi aspetta un secondo perché ho la pubblicità da mandare, poi voglio capire perché è interessante questo punto. Cosa dovrebbe fare l'opposizione invece di dire solo no? Forse a questo lei si riferisce. Siamo qui alle 20:12, 800 24 00 24, altri ascoltatori, ma subito vi annuncio che parleremo di cose un po' piccanti, per modo di dire, naturalmente, con Simone Regazzoni. Buonasera. Buonasera a voi. Docente di filosofia delle arti visive presso l'Università Cattolica di Milano, in realtà lei insegna anche storia economica della cultura, o sbaglio? Sì, per ora, forse ancora. Per ora, forse ancora, perché c'è una polemica in corso. Lei è del 75, un ragazzino, Regazzoni? Sì, sono un ragazzino. Sì, per l'università italiana sì, direi di sì, anzi forse sono un record, farsi cacciare a 35 anni ed essendo già dentro non è cosa da poco. No, infatti, poi lei è allievo di Jacques Derrida, adesso noi passiamo dai discorsi proprio così terra terra come Bersani che dà della rompicoglione alla Gelmini a Jacques Derrida, si immagini un po'. Ha studiato con Jacques Derrida a Parigi, ha fatto un dottorato in filosofia all'Università di Parigi, 8, e lei dice a 35 anni rischio di farmi cacciare, anche se poi bisogna sempre dire che lei non è assunto a tempo indeterminato, altrimenti non potrebbe essere cacciato, certo. Ma ha un contratto a termine, forse la Cattolica, ma ne parleremo, per un libro che lei ha pubblicato, potrebbe non rinnovarle il contratto. Sì, è così, no? Assolutamente sì. Grazie. Enzo da Salerno, prima. Ragazzoni, resti con noi perché ci interessa molto questa storia. Enzo, prego. Buonasera Cruciani, salve. Dica. Chiamo perché è indignato dalle parole di Sommese, molto nettamente. Che ha detto? Non conosceva nemmeno il nome della macchina che guidava, mi sembrava un personaggio... No, mi permetta. Guardi, noi in Campania abbiamo due lingue, una è il partenopeo e l'altro è l'italiano, a differenza di qualche altra regione che hanno i dialetti. Bene, Sommese ha risposto come si fa in politichese, io sono un elettore di centrodestra, per carità di nostro signore. Per carità di nostro signore mi sembra un po' esagerato, però carità di nostro signore inteso come elettore di centrodestra, quindi non sono all'opposto. No, ma ho capito. No, io dico allora, sempre per carità, non aggiungo mai per carità di nostro signore, mi piaceva l'espressione che lei ha usato. No, Enzo, mi scusi un attimo, lei è un elettore di centrodestra, bisogna dire che Sommese è dell'UDC, qualcuno mi dice che era anche del Partito Democratico prima, comunque non è proprio del centrodestra. Va benissimo. Allora, è uguale. No, è uguale, perché tanto quando dicono delle cavolate, voglio dire, è uguale, che stanno di qua o di là. Allora il problema è questo, che Sommese ha risposto tra le 12 e le 20 macchine blu che ha detto, come rappresentante degli assessori. Però andiamo a vedere quante macchine blu dei consiglieri. No, io gli ho chiesto, scusi un attimo, Enzo, io ho chiesto a Sommese una cosa che riguarda tutte le auto blu della regione Campania. Lui mi ha detto, poi controlleremo, però l'assessore al personale dovrebbe saperlo, anche se in carica da pochi giorni, quante auto blu ci sono in Campania. Lui ci ha detto una ventina in tutto. Lei non ci crede? Se n'è andato. L'anno prossimo che ci sarà il federalismo fiscale, voglio dire, che sarà sempre più spinto, Sommese dovrà rispondere a noi campani, voglio dire. Ma anche adesso deve rispondere a voi campani, Enzo. Sì, non è che risponde assolutamente, a, però a guardi che siamo ancora, cioè, a borderline, siamo ancora in quel limbo dove arrivano i soldi da Roma, non arrivano, questo, quell'altro, sopra e sotto. Da domani, quando ci sarà proprio da combattere, voglio dire, allora che bel discorso leghista, le Enzo. Mi scusi? È un bel discorso da leghista lei fa, Enzo, quando ci sarà il federalismo fiscale, finalmente. No, ma non lo dico in senso negativo. No, io faccio un discorso da persona che ormai è stanca. Io faccio l'imprenditore tutte le mattine. Se voglio andare a lavorare, la mia macchina deve essere funzionante. Sommese, se vuole andare a fare l'assessore, deve andarci con i mezzi propri. E così anche tutti gli assessori. Se Caldoro si è tagliato l'auto blu, non ha fatto nulla di straordinario, ha fatto solo un gesto di civiltà, ma così dovrebbero essere le persone. Io, tra l'altro, le dirò, ho sempre stimato la dinamicità di De Luca, che lei più volte ha citato nelle varie cose, perché De Luca, bene o male, fa soggetto, predicato e complemento. Questi invece sono tutte persone che molto onestamente, al di là della loro appartenenza politica, hanno in essere solo da pensare ai loro benefit. Loro devono pensare a beneficio della collettività. Ho capito, Enzo, lei è molto chiaro, grazie. Traffico, poi andiamo con Regazzoni, docente ragazzino per l'Università Italiana, naturalmente, che, ripeto, per un libro che ha irritato i vertici della Cattolica rischia di non essere più l'università, magari non è un dramma per lui. Sentiremo anche cosa contiene di così pruriginoso questo libro. Siamo qui 20 e 18 con Simone Regazzoni, autore di Porno Sofia. Regazzoni, ma innanzitutto diciamo che lei dovrebbe fare un monumento a questi della Cattolica, perché il suo libro, che è edito da Ponte alle Grazie, non poteva ricevere pubblicità più grande da una cosa di questo tipo. Lei è consapevole di questo? Sì, sono assolutamente consapevole. Mi chiedo se non ne siano inconsciamente, in qualche modo, consapevoli anche loro. Può darsi, può darsi. Questo è veramente un gesto di amore verso il mio libro. Assolutamente sì. Senta, ma insomma, questo suo libro, innanzitutto, di cosa parla? Sì. Che cos'è che può avere toccato qualcuno alla Cattolica, i vertici, non so? Questo bisognerebbe chiederlo a loro, che ormai da qualche settimana non rispondono più. Però credo che la questione sia quella, proprio, che affronto nel mio libro, di dire: il porno non può essere più uno sceno segreto privato. Il porno è un tema che va affrontato in tutta chiarezza come uno dei grandi fenomeni del nostro tempo. Lei ricordava prima che ho studiato a Parigi con Derrida. Ebbene, a Parigi, presso Universitaire de France, cioè la casa editrice più prestigiosa dell'Accademia, ha pubblicato un dictionnaire della pornografia, un dizionario della pornografia di 800 pagine, dove cattedratici parlano di pornografia. Quindi il mio tentativo era di cercare di portare un dibattito di tipo filosofico anche in Italia, dove, a dire il vero, i libri filosofici sulla pornografia davvero sono quasi assenti. Ce n'è uno di Annalisa Verza e basta, oltre al mio. Dunque, il suo è un libro che vuole affrontare la pornografia, il porno in generale, non solo la pornografia, anche il cinema, eccetera, insomma, il fenomeno del porno da un punto di vista, come dire, storico, filosofico, cose di questo tipo, no? Soprattutto filosofico. Soprattutto filosofico. Il titolo Porno Sofia in realtà è proprio una citazione, un omaggio a un grande filosofo italiano, Franco Volpi, che anni fa su Panorama aveva detto: i tempi sono maturi per fare una filosofia che affronti senza moralismi la pornografia. Forse i tempi erano maturi, ma in Cattolica non sono ancora così maturi per accettare questo tipo di lavoro filosofico. Chi è che si è arrabbiato? Mi scusi, chi è che, soprattutto, lei lo sa. Beh, io ho sentito la coordinatrice del mio corso di laurea, ma credo che qualcuno si sia arrabbiato con lei. Sono tutte queste modalità, non si arriva bene a capire chi in realtà si sia arrabbiato. Comunque, però mi scusi, Regazzoni, lei si poteva aspettare che, essendo un docente a termine, eccetera, qualsiasi cosa lei può fare, diciamo, da questo punto di vista, può irritare qualcuno. Figuriamoci una cosa di questo tipo. Cioè, quando lei parla all'interno di questo libro, immagino, perché io ancora non l'ho letto, lo riceverò tra qualche giorno, di aspetti anche se vogliamo, no? Con delle, soprattutto usa delle espressioni particolari o comunque parla di questi temi, per carità, poi secondo me fanno malissimo a non rinnovare il contratto se è solo per questo il motivo. Sì, allora, è indubbio che se uno scrive un libro sulla pornografia e insegna cattolica, se non mette, diciamo, il fatto che il suo rapporto di lavoro possa finire, è un ingenuo, non avrebbe senso. Quello che a me disturba non è questo fatto, è che la cattolica, avendo dei problemi legati ad esempio a una sentenza che proprio nel 2009 è stata emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dicendo che la cattolica ha leso i diritti di libertà di espressione per aver cacciato un professore, non si è esposta a dirmi lei è fuori per il libro sulla pornografia. Prima mi ha attaccato personalmente, ci siamo incontrati con le persone, mi è stato detto tutto quello che mi è stato detto. E che cosa le hanno detto? Mi hanno detto che avevo in qualche modo leso alla dignità e al nome dell'università, del corso di laurea, che avevo creato un problema enorme, eccetera, ma non voglio entrare nel merito. L'altra cosa che mi è stato detto è che il contratto che fino a settimane prima era dato per certo, perché io ho già presentato un programma, il termini per consegnare i programmi dell'anno prossimo sono scaduti il 19, a me erano stati già affidati i corsi. Da quel momento in poi mi è stato detto che nessuno mi poteva garantire più nulla e che se mi arriverà il contratto a luglio da firmare bene, altrimenti fine del rapporto, cosa che io accetto, non accetto il modo. Cioè perché lei, perché di ciò che scrivo vabbè, non sentiamo più ragazzoni, cerchiamo di ricollegarci perché non è il collegamento con la Groenlandia e dunque credo che si possa realizzare un collegamento con Milano in maniera normale. Davide da Bologna, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Prego, volevo dica. Intervenire in merito al pezzo di Ferrara, in merito alle lenzuolate di intercettazioni. Ho sentito stamattina anche nella rubrica di Milan e ho fatto la stessa riflessione quando l'ho proposta stasera. E riflettevo su questo, è vero, probabilmente all'estero non capita di leggere o avere paginate piene di intercettazioni, ma forse è anche vero che all'estero non abbiamo ministri che non sanno chi gli ha comperato la casa, non abbiamo responsabili della protezione civile la cui moralità è messa in forte discussione per tutta la serie di intrallazzi che vengono fuori dalle intercettazioni. Quindi dal mio punto di vista ben vengano le intercettazioni, ben venga che vengano pubblicate. Ma il problema, Davide, è perché lei dice ben venga che vengano pubblicate? Ci vuole, cioè, perché non riconoscere, mi scusi però Davide, perché lei non vuole riconoscere che dal punto di vista della pubblicazione, non dico della modalità di intercettare e di quello che possono fare o non possono fare i magistrati, perché non riconoscere che c'è stato un eccesso in Italia da questo punto di vista? Sulla pubblicazione dico, sulla pubblicazione. Perché non riconoscerlo? Magari riconoscendolo si può evitare anche lo stesso Ferrara, che è molto critico su questa questione delle intercettazioni e soprattutto sulla mobilitazione dei giornali, riconosce anche e dice, ce l'ho qui l'articolo di oggi sul Foglio del lunedì, che probabilmente è meglio non fare una legge su questo. Per cui insomma, qualche dubbio anche i più critici nei confronti di questa mobilitazione dei giornali ce l'hanno. Allora perché non riconoscere che c'è stato un eccesso? Ben vengono le intercettazioni. Che significa ben vengono le intercettazioni? Certo, per le indagini, ma la pubblicazione è un'altra cosa, o no? Ma non avremmo saputo mai e non avremmo oggi un ministro. Ma che significa non avremmo saputo mai? Non è un argomento, non avremmo saputo mai. Non è che il sapere le cose, anche le più inutili, sia un diritto. Davide, non è che sapere le conversazioni tra Berlusconi e Sacca, se non sono utili alle indagini, sia un diritto dell'umanità, sia un diritto degli italiani. Abbia pazienza, adesso mi sono riferito alle intercettazioni tra Berlusconi e Sacca, potrei dire qualsiasi altra cosa. Dov'è il diritto? Dov'è in questo caso il diritto? Mi scusi Davide, dov'è? Ma è il diritto dell'elettore che deve sapere cosa combinano i politici. Ma quale diritto dell'elettore? Ora mettiamo, ma che c'entra il diritto dell'elettore, Davide? Cosa c'entra in questo caso? Le intercettazioni si fanno per le indagini, non per le elezioni, non per fare scegliere alla gente chi votare o chi non votare. Il fatto che poi finiscano sui giornali è perché si è abbassato il livello dello scontro politico. Non avremmo avuto un caso boffo. Perché pubblicare il caso boffo e dopo scoprire che probabilmente è tutta una montatura? No, mi scusi Davide, il caso boffo non c'entra assolutamente nulla, perché nel caso boffo le intercettazioni non c'entrano, non ci sono, non esistono, no, le intercettazioni nel caso boffo. Si è abbassato il livello dello scontro politico, si è abbassato il livello tantissimo. Per cui alla fine tutto il gossip, tutto quello che serve per sputtanare, scusi il termine, le persone coinvolte fa bene, è utile alla causa di chi quella causa scusi un attimo Davide, allora, è d'accordo con me allora, perché mi dice ben vengono le intercettazioni, ben venga la pubblicazione delle intercettazioni quando poi la pensa diversamente? Non ho capito. No, non è vero, io non la penso diversamente. Io sono convinto che le intercettazioni che sono agli atti possono essere pubblicate. Perché abolire le intercettazioni? Ma chi le vuole abolire le intercettazioni? Guardi, il ministro della giustizia questa sera ha detto una cosa che è sbagliatissima, per esempio. Ha detto non succede nulla per quello che riguarda la mafia e il terrorismo. E beh, che c'entra? Non è che le intercettazioni si debbano fare solo sulla mafia e il terrorismo, si possono fare anche su altri reati. Io sono contrario a qualsiasi intervento sulla modalità di fare le intercettazioni da parte dei magistrati. Si può correggere qualcosina, per esempio il limite dei 75 giorni per alcuni tipi di reati, sbagliatissimo. Si deve dare la possibilità di intercettare, naturalmente nei limiti previsti oggi dal codice, con i vari passaggi, i vari controlli, eccetera eccetera. Dopodiché la pubblicazione è un altro discorso. Sono sbagliatissime le norme contro gli editori e contro i giornalisti, però una qualche regolamentazione ci vuole da questo punto di vista, o no? Che vada regolamentato, sì, però che vada anche regolamentato il comportamento, la condotta anche di chi sta sopra di noi, Cruciani. No, ma io penso... da questo siamo d'accordo, certo Davide, ma non è il modo. Secondo lei la pubblicazione delle intercettazioni all'inizio di un'indagine, di tutte le intercettazioni possibili, è un modo per trasformare e migliorare la nostra classe dirigente? Allora, oggi Luca Rigolfi, cito ancora dall'articolo di oggi, se davvero questo, cioè difendere la privacy dei comuni cittadini, fosse stato l'obiettivo della legge, essa non conterrebbe norme che addirittura impediscono di parlare delle inchieste, né sarebbe costellata da una miriade di ostacoli alle indagini. Primo fra tutti l'impossibilità di intercettare per più di 75 giorni. Se davvero la tutela della privacy fosse il motivo ispiratore della legge, c'erano altri mezzi per assicurarne il rispetto, ad esempio la distruzione delle trascrizioni irrilevanti, come da più parti è stato ripetutamente suggerito. Dunque, l'obiettivo, sono d'accordo con lei, l'obiettivo non è quello della tutela della privacy, ma è semplicemente quello di rendere più difficili le intercettazioni in modo che la politica non abbia rotture di scatole. Questo è l'obiettivo fondamentale della legge, ma è sbagliato, assolutamente sbagliato. Eccoci qui, 20:34, 800 24 00 24, andiamo a sentire TG2. Napolitano chiede equità nella manovra economica, il governo al lavoro su un provvedimento da 24 miliardi, Letta sacrifici duri, speriamo per poco tempo. Appello del Cardinal Bagnasco sulla crisi economica, serve un impegno bipartisan, monito sulla bassa natalità, l'Italia va verso il suicidio demografico. La maggioranza apre a modifiche sul provvedimento, ma solo una volta licenziato in commissione in Senato, l'opposizione cambiarlo subito, la protesta del mondo dell'informazione. 8 persone arrestate all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli si assentavano senza motivo dal lavoro, assenteisti nel mirino anche in una indagine al Ministero delle Infrastrutture. A Pechino, nel ristorante dello zoo, vengono servite dita di ippopotamo, coda di canguro, zuppa di scorpioni, tutti animali che si trovano nel parco, la denuncia degli ambientalisti. Bene, 800 24 00 24, questi i titoli del TG2, non frequentate dunque, secondo i consigli degli ambientalisti, il ristorante dello zoo di Pechino in Cina, perché servono cose di questo tipo, quelle che avete sentito nell'ultimo titolo appunto del TG2. Francesco da Reggio Calabria, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, innanzitutto volevo fare i complimenti per la lezione, veramente interessante. Comunque, io chiamavo per un argomento che riguardava il linguaggio politico adottato dai nostri, diciamo, politici, appunto. Scusi il gioco di parole, sono un po' emozionato. Sì, Francesco, però la sentiamo male. Questa sera, purtroppo, a conversazione andiamo malissimo. Roberto da Macerata, buonasera. Salve Cruciani, filiera corta in Cina, vedo. Vorrei dire appunto questo. Io sono rimasto ancora alla battuta ascoltata di prima, mi è rimasta impressa. Sommese, com'era? Sommese auto blu, mi piaci tu, bellissima. Mandiamola sta pubblicità. No, ce l'abbiamo sta pubblicità, mandiamola. No, ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Vabbè, Roberto. Parte della trasmissione purtroppo non l'ho ascoltata, io quindi magari dirò una cosa già detta a proposito di Bersani e del linguaggio causato con la Germini. Secondo me è stato anche la vedo forse un po' esagerata, una vigliaccata. Un signore della sua età che se la prende con una signora che è comunque una ragazza che potrebbe essere la figlia. Secondo me non è da uomo che si dice di sinistra e fino a un certo punto elegante e compito. Perché, mi scusi? Perché quel linguaggio è più, prima di tutto, usabile tra uomini. Cioè, io ho magari questa vecchia concezione, potrebbe essere anche sbagliata, una signora è capacissima di rispondere e farti stare zitto, però tu non dovresti mai partire. E se lo facesse un mio amico, se lo facesse mio padre, a me darebbe fastidio. Io non ho mai sentito parlare mio padre a una ragazza, a mia madre, in quel tono. È una questione proprio tra uomini e donne, tra educazione. Ma è, però, è una discussione... Mi scusi, Roberto, non è che si possono dare giudizi politici anche molto sferzanti. Beh, allora che facciamo? Se una volta arrivassimo al paradosso di avere... al paradosso, non proprio al paradosso, cioè ad una situazione tipo quella della Norvegia, non so che altro paese, in cui ci sono quasi tutti ministri donne, che facciamo? Ci si deve rivolgere col bon ton, non si possono usare critiche feroci, no, si devono bon usare magari parole a modo. Però visto che spesso dalla sinistra partono anche insegnamenti morali, che ne so, anche quelli della Lega, lo stesso Berlusconi quando ha trattato male anche la stessa Bindi, una levata di scudi, tutti sì. quanti a dire, perché loro partono subito... Capisce? Io non è che dico che non si possa fare. Ho capito, Roberto, una differenza c'è. Sicuramente se l'avesse detto un ministro di centrodestra sarebbe venuto giù il mondo, l'abbiamo già detto prima. Sicuramente la frase non è felicissima, però insomma io penso che, ripeto, l'ho detto all'inizio, un certo linguaggio che è anche popolare vada accettato, insomma nei limiti naturalmente, nei limiti di un discorso eccetera, e quando non è... particolarmente volgare. Ripeto, a parti invertite sarebbe successo l'inferno. Paolo da Milano, prego. Volevo dire esattamente la stessa cosa, a parti inverse sarebbe successo un cataclisma. Io non voto da tanti anni, però la politica mi piace molto, e sentendo le dichiarazioni di Bersani, il giorno dopo apro i giornali e cercavo le magliette. Cioè, immaginavo che ci fosse un pieno di seguaci della Bindi che avessero la maglietta con scritto "io non rompo i coglioni", che invece niente da fare. Tutto qua. Sì, devo dire che anche il ripeto, l'ascoltatrice che mi ha chiamato un'oretta fa circa, alla fine mi ha fatto capire che dare del rompicoglione a qualcuno non è poi un'offesa così grave, anzi c'è chi può essere orgoglioso di questa cosa. Paolo, Marco dalla provincia di Trento, la ringrazio. Paolo, Marco, prego. Buonasera signor Cruciani, buonasera. Intanto dica. La ringrazio perché ogni volta che parto la sera accendo il camion, accendo la radio e mi fate compagnia per un bel pezzo di strada. Quindi grande. Dove si trova adesso, Marco? Adesso sono a Cittadella. Cittadella, a Cittadella, vicino Padova. Sì. Senta, sì, ma sì, lei viaggia sempre la sera, solo la sera viaggia? Sì, di notte lavoro sempre. Di notte, solo di notte lavora. Sì, infatti ascolto anche la replica quando torno indietro. Bene, bene. Che mi vuole dire? Ma io ho seguito, siccome seguo sempre la trasmissione, ultimamente ero molto interessato al discorso dei tagli delle auto blu, delle riduzioni di stipendio dei nostri parlamentari, praticamente insomma di rivedere un po' tutti i costi di mantenimento dello Stato, no? Un po' così, no? E sento che quando intervengono gli ospiti tendono sempre a dire "ma però le auto blu non serve, non è necessario, non è quello che cambia le cose, ma però non è il taglio di stipendi che cambia le cose". Come dicevo la ragazza prima, invece, come la vedo io che sono piccolino, sarebbe molto bello sentire qualcuno... Piccolino in che senso? Mi scusi... Piccolino, Marco, nel senso, io sono 1% dello Stato italiano, no? Quindi voglio dire, quello che penso io è relativo, no? Però nel mio piccolo penso che se ci fosse uno qualunque dei nostri rappresentanti che avrebbe il coraggio di dire "no, va bene anche tagliare un euro, va bene tagliare un euro perché comunque siamo d'esempio", no? Così anche io sono più stimolato a dire "guarda, va bene, no? Anch'io faccio un sacrificio perché lo fanno anche loro, lo faccio anch'io, no?". Ma se no, al contrario, io mi chiedo "ma perché della mia busta paga il 56% va bene tagliarlo, comunque per poco che sia, qualunque altro operaio come me, va bene tagliarlo e vada allo Stato, però loro non devono mai tagliarsi niente". Sì, lo so che guadagnano poco, capisco che guadagnano poco, mi dispiace che guadagnano poco, però... Chi guadagna poco? I parlamentari hanno detto che guadagnano poco, sono pochi che guadagnano solo... Vabbè, ma non... No, vabbè, io dico... Lo dice qualcuno, lo dice... In realtà non lo dice nessuno. Io ho sentito dire da tanti questa cosa qui, non solo la sua trasmissione, anche altre trasmissioni. Lo dicono molto spesso che guadagnano poco. E va bene che guadagnano poco, capisco, però il momento adesso è difficile, c'è crisi, è inutile pretendere di guadagnare di più. Intanto... Va bene, Marco, grazie. Anche un euro di risparmio, le dice con l'auto blu. Va bene, Claudio, provincia di Savona. Buonasera. Sì, buonasera, Cruciani. Chiamo anch'io per la frase, magari un po' infelice, di Bersani. Io sono un elettore di centrodestra, però devo dire che in questo caso sono assolutamente in linea con quello che ha detto la Bindi. Per me il problema non è tanto. Però un'ascoltatrice poi invece si è, diciamo, felicitata di questo cambio di linguaggio, come se fosse una novità, uno svecchiamento. Allora io vorrei ricordare che quando Forza Italia ha vinto le elezioni nel 95-96, se non ricordo più, l'Unità ha detto che l'Italia era un paese di merda, e mi sembra che il premio Nobel Dario Fo abbia detto che gli italiani sono imbecil gente. Vabbè, insomma, sia l'unità che Dario Fo continuano a dire le stesse cose anche a 15 anni di distanza, appunto. 16 anni. Ma perché mi sta raccontando questo? Scusi, che c'entra? Perché secondo me è più offensivo quello che dare rotto in coglione. Per il resto, io ripeto, come la Bindi ha fatto un'osservazione che su un personaggio politico, sulla politica sta facendo. Poi io non sono d'accordo con Bersani, però io trovo più offensivo dare dell'energumeno tascabile a Brunetta, per esempio, se dobbiamo vedere. Vabbè, ma adesso non facciamo una classifica. Sono quelle affermazioni che così strappano l'applauso di qualche insegnante, va bene, un po' come la frase dell'attore lì al Festival del Cinema, che ha messo un po' di lecaculismo nei confronti dell'opposizione, poi ognuno avrà le sue opinioni. Ma in questo caso, guardi, non credo che nelle frasi di Germano ci sia una questione di opposizione o di maggioranza, era una cosa sulla classe dirigente del paese, certo, era diretta al governo. Poi c'è stata anche una polemica perché il TG1 non ha mandato in onda la frase, ma è stata riportata in studio, il TG5 invece nel servizio non ha citato questa frase di Germano. Alfredo da Roma, buonasera. Buonasera, Cruciani, lei è un mito. È un mito, lei lo sa perfettamente. Allora, io le vorrei dire una cosa molto semplice. Allora, Bersani, con il suo decreto, quando era ministro all'epoca, fece questo decreto che, insomma, conglomerava un po' tutti i commercianti in uno studio di settore. Ma lei di che parla? Delle lenzuolate di Bersani? Bersani ha fatto tanti provvedimenti quando era ministro, per cui insomma, esatto. Vabbè, comunque insomma, Bersani, allora che cosa lei non lo può negare o no? In che senso? Beh, insomma, in senso positivo, secondo me, per esempio. Ma in senso positivo per alcune cose, in senso negativo in un altro. Comunque, chi fa il dipende dai punti di vista, naturalmente, no? Beh, ovviamente, però dico, chi fa il suo lavoro e lo fa bene, purtroppo ogni tanto è pedante ed è la gente che sta con lui, che lavora con lui, probabilmente lo può etichettare come rompicoglioni. Questo è, sì. C'è un annuncio di Tremonti, c'è un annuncio di Tremonti che sicuramente farà discutere sulla manovra economica. Tremonti, leggo un flash, taglia i partiti, dimezzati i contributi. Questa, insomma, fosse vero, sarebbe una buona notizia, dimezzati i contributi ai partiti, quelli che arrivano ai partiti. È una cosa fantastica, come a tanti piccoli giornali. Dopo le elezioni. Come, scusi? Come a tanti piccoli giornali che leggono in quattro persone, o a volte leggono solo tra di loro. Questa è una cosa un po' diversa. I tagli ai partiti sono i contributi che arrivano direttamente ai partiti, un euro per ogni elettore, come lei sa, credo che sia così. Certo, sì, non sapevo la cifra. Non è il contributo all'editoria. Non è il contributo all'editoria. Va bene, c'è anche la signora che ha chiamato prima, che ha detto, ma insomma, dare del rompicoglione a qualcuno, poi non è detto che sia un'offesa, perché a me, diceva la signora, quando danno del rompicoglioni sono contenta. Lei è contento se le danno del rompicoglioni? Noide. Però voglio dire, ovviamente la figura della maestra che tiene il bambino, è uno che ti dice, no, guarda, devi lavorare così, devi fare questo, devi fare quello, sì, ok, è una cosa che può essere appunto etichettata come un modo da rompipalle, da rompiscatole. Ma purtroppo chi fa il suo lavoro e lo fa bene a volte è anche un rompiscatole, questo sicuramente. La Gelmini è un giovane ministro che si sta sta nuotando in un mare molto difficile e assai difficile, dove c'è lo zoccolo duro dei ben pensanti di sinistra e anche persone molto capaci, che sono quelle che poi circuitano nel mondo della scuola, che non è un mondo per niente facile, e si è presa una bella patata bollente da pelare. Perciò bisognerebbe anche capirla quando fa delle cose che un po' per inesperienza, un po' perché ha un po' troppo di briglia sciolta, le sono permesse in maniera così un po' superficiale. Va bene. Ma lei entra nel merito della politica della Gelmini, cosa che al momento non è che ci interessi particolarmente, ma la ringrazio. Intanto Tremonti ha annunciato che ci sarà la sanatoria immobiliare sulle case fantasma nella manovra. Siamo qui alle 20.49 per l'ultima parte della Zanzara, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Arriva anche una notizia che riguarda i 150 anni della Festa dell'Unità d'Italia. Sentiremo nelle prossime ore se ci saranno le stesse polemiche su alcune frasi pronunciate dai leghisti. Perché dice Di Pietro che per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia basterebbe una festicciola in famiglia. Una festicciola in famiglia, proprio così dice Di Pietro, che fa parte dell'opposizione, senza sperperare troppi soldi vista la gravità della crisi. Se l'avesse detto un leghista sarebbe successo il cataclismo. Lo dice Antonio Di Pietro, che è il capo di uno dei due partiti che sono all'opposizione, i due partiti, diciamo, che sono presentati insieme alle elezioni, cioè Partito Democratico e Italia dei Valori, leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, e vedrete, passerà un po' in cavalleria. Per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia basterebbe una festicciola in famiglia, dice Di Pietro. Intanto escono altre notizie per quello che riguarda la manovra economica, perché Tremonti sta parlando davanti alla consulta del PDL, consulta economica del PDL, e direi di andare in provincia di Modena da Maurizio. Sì. Prego Maurizio, dica. Salve, no, io avevo chiamato perché sono un sindaco neoeletto del comune di Montecreto, in provincia di Modena. Sì, quanti abitanti ha questo Montecreto? 972 per la precisione. 972? Sì, esatto, piccolissimo comune. No, io avevo chiamato perché è già da un po' di tempo, insomma, che si dibatte sui costi della politica per quanto riguarda appunto i risparmi che debbono essere fatti nelle amministrazioni pubbliche. Io non vorrei che passasse, diciamo così, un messaggio, no? Che chi ha delle cariche anche politiche e quant'altro. Guardi Maurizio, stasera abbiamo dei problemi perché non c'è mezza telefonata che sentiamo in maniera decente, ma insomma può succedere anche. Allora, Simone Regazzoni, siamo di nuovo in collegamento. Buonasera. Con lei, ma dove c'è finito? Dove è finito? I treni, maledetti treni, maledetti treni. Il treno da Milano. Il treno da Milano, dove va? A Genova, che ci va a fare? Ormai a Genova, sono arrivato, vivo a Genova. Perché lei vive a Genova? Vivo a Milano, ma vivo a Genova. Senta, ma insomma, mischiare, cioè non mischiare in realtà, lei si poteva aspettare che parlando di porno, anche se in maniera filosofica eccetera eccetera, Moana Pozzi e altre persone sempre viste e rivisitate in maniera diversa, e tutti i fenomeni del porno di oggi, da parte di un docente della Cattolica, insomma, lei queste cose se le poteva aspettare, queste reazioni, oppure no? Mi dica, sì, mi dica sinceramente. Sì, io me le potevo aspettare. Solo una cosa però, ad esempio, in Cattolica la coordinatrice del mio corso era informata che da un anno che questo libro sarebbe stato pubblicato. Lo scandalo è successo nel momento in cui un'intervista su un giornale di ampia diffusione ha messo insieme il fatto del libro sulla pornografia e il docente in Cattolica. Ma detto questo, la Cattolica ha il diritto di valutare negativamente questo fatto. La modalità in cui però sono arrivati a farlo è, credo sia sbagliata. Cioè, secondo lei dovevano dirle chiaramente: lo facciamo per questo, perché il libro non ci piace, non ci piace che il nome della Cattolica sia accostato a un autore di scritti sulla pornografia? Dovevano prendersi la responsabilità etica di dire: il suo contratto scade perché lei ha scritto un libro di filosofia sulla pornografia, mentre in dialogo sono stato accusato con questo libro di aver in qualche modo rovinato l'immagine di un corso di laurea, e poi quando si trattava di dire bene è chiusa, invece loro si sono tirati indietro dicendo: vedremo se le arriverà il contratto. Questo non lo trovo un comportamento da università seria qual è la Cattolica. Capito. Senta però, senta questo ascoltatore da Como, Gabriele. Prego. Gabriele, buonasera. Sera, dalla provincia di Como, da Cancun. Sì, mi dica se riusciamo a fare qualche collegamento telefonico stasera. Gabriele, prego. Sente, sì, io sento bene. Sì, io male, comunque, no, insomma. Proviamo. No, mi chiedevo, così mi curiosiva l'accostamento fra filosofia e pornografia, quindi senza scomodare le radici etimologiche di questo bellissimo... Però lei è col viva voce oppure con l'auricolare, perché non sentiamo assolutamente nulla. Gabriele, se accosta... lo so, ho capito. Provo a togliere essere veloce, ma temo di non riuscirci adesso in chiamata. No, comunque brevemente, Cruciani, vorrei chiedere al suo ospite l'interrelazione. Mi sente? Sì, sì, la sento, Gabriele, dica. Ah, l'interrelazione fra filosofia e pornografia. E magari quel professore si dovrebbe anche chiedere come mai diciamo gode di questo primato, nel senso che nessuno ne ha mai parlato in passato. No, però mi scusi Gabriele, adesso non possiamo entrare nel merito del libro, poi quando lo riceverò magari vi intratterrò insieme a Simone Regazzoni. Qui ho scritto che lei è stato studente alla Cattolica, è vero? È sparito Gabriele, vabbè, ma questa sera va così. Ho seguito lezioni con un certo Reale che mi ha dato che qualcosa, ma volevo chiedere, perché vorrei esprimere il trasalimento, cosa c'entra la filosofia, perché possiamo parlare di filosofia a questo punto anche nel pallone, piuttosto capisco uno studio di antropologia piuttosto che di sociologia o che altro, mi dica il professore. Vabbè, questo è un altro discorso, però Gabriele mi scusi, secondo lei se è vero che il professore potrebbe lasciare la Cattolica, secondo lei hanno fatto bene quelli della Cattolica? Allora, chi diciamo accetta un incarico alla Cattolica accetta e prende coscienza di tutte quelle che sono diciamo le incombenze. Cioè, secondo lei uno che fa il professore alla Cattolica non può scrivere un libro sulla filosofia nel porno? Allora, io vorrei entrare nel merito. A me sentire questo accostamento mi lascia quantomeno... ho capito, quello è ognuno sarà libero di scrivere quello che vuole, anche le più grandi corbellerie, non dico che quelle di Regazzoni sono corbellerie, ma io dico... Secondo lei, uno che insegna la Cattolica non può fare un libro filosofico, un libro di considerazioni sul mondo della pornografia? Ma è sbagliato il sillogismo, non è che bisogna entrare nel merito. Io non credo che solo per il semplice fatto che il professor Regazzoni abbia scritto un libro di filosofia... Scusi un attimo, Gabriele, allora mettiamo che non abbia scritto un libro di filosofia sul porno, ma avesse scritto la biografia di Rocco Siffredi e di Moana Pozzi, questo secondo lei è compatibile con il fatto di insegnare alla Cattolica o no? È compatibile se ha un profondo interesse a carattere scientifico. Questo è ho capito, non è che lo fa nel suo corso, non è che lo fa nel suo corso di laurea. Beh, comunque avremo modo di parlarne. Caro Regazzoni, è arrivato a Milano tutto tranquillo in stazione? Sì, posso aggiungere semplicemente una cosa per precisare. Io capisco che in Italia si possa essere sorpresi di associare la filosofia alla pornografia, sì, ma vi assicuro che non invento nulla, cioè in ambito americano c'è una bibliografia talmente vasta. No, ma questo qua lo so benissimo, Regazzoni, ecco, no, però troveremo il modo di capire se l'accostamento tra la filosofia e Moana Pozzi o Rocco Siffredi, se io semplifico, è qualcosa che può affascinare anche i nostri ascoltatori. In un'altra occasione, Regazzoni, farò grande pubblicità se vuole al suo libro, lo ricevo, lo leggo, se mi piace ne riparliamo. A domani. 18:30. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio.